Adesso apriamo il dibattito. Ci sono per adesso due richieste di intervento, una del professor Pellegrino dell'Università di Verona per il professor Purcell. Se magari si vuole accomodare, grazie. Ho trovato tutte le relazioni, compresa quelle del professor Fuscheller, molto interessanti, profonde, però ho trovato qualche disarmonia, qualche contrasto. Innanzitutto mi sento pienamente d'accordo con il professor Fuscheller su questo punto. C'è in Rosmini una complementarietà tra la filosofia come metafisica e la teologia. E questo si riflette anche sulla complementarità tra grazia e natura, tra il concetto stesso di natura pura, perché in fondo il continuo tentativo di Rosmini di collegarsi con San Tommaso significa che lui accetta l'interpretazione che Tommaso dà delle essenze. L'essenza, secondo Tommaso, può essere considerata nel dente ed essenza come astratta, come concreta, come assoluta. Ecco, questa complementarietà si riflette non soltanto sul problema natura, soprannatura, grazia e natura, ma anche sul problema, come vedremo, credo, domani, della Chiesa. C'è un rapporto di complementarietà tra la Chiesa come realtà umana e la Chiesa come realtà soprannaturale. Allora io non riesco a mettere d'accordo questa posizione, che ritengo valida e che è veramente rosminiana, di complementarietà tra la filosofia come metafisica, apprenti al trascendentale. I trascendentali per Rosmini, come per Tommaso, come in genere per la tradizione cattolica, appartengono all'ordine ontologico reale. E la posizione che ho trovato in Verweyen stamattina, ed è anche nella sintesi che ha presentato, e io mi chiedo anche se Menke non ha una posizione simile, della filosofia come vicolo cieco. La filosofia come vicolo cieco, come Geschlossene Strasse. Credo che non sia niente a che fare con Rosmini questo. Questa è una posizione che può avere Barthes, la filosofia come storia degli errori umani. La filosofia come vicolo cieco non è assolutamente rosminiana. La filosofia per Rosmini certamente è limitata, imperfetta, ma non è affatto un vicolo cieco. È una conoscenza di valore trascendentale e ontologico valida, sia pur limitata, imperfetta, che può dare adito ad errori, ma è complementare. Ecco, questo, io ho trovato una disarmonia in queste posizioni. Ritengo completamente sbagliata la posizione della filosofia, anzi metafisica, è detto nella sintesi anche che è stata presentata, può darsi che abbia interpretato in un modo un po'... forse deviante questa idea della filosofia come vicolo cieco che è scritto lì. Ora, quello non è per niente rosminiano, non è nella tradizione cattolica, è nella tradizione di alcuni protestanti, non di tutti, cioè di Barthes. Per Barthes la filosofia è la storia degli errori umani, ma questo non è per niente rosminiano. Ecco, io vorrei sapere il parere del professor Fuscheller, se lui è d'accordo con la complementarità tra metafisica, filosofia intesa come metafisica, perché per Rosmini la vera filosofia è metafisica, tra la metafisica e la teologia, oppure se è d'accordo con l'idea, che per me è completamente sbagliata dal punto di vista rosminiano, della filosofia come vicolo cieco. Io non ritengo che per Rosmini sia un vicolo cieco. Grazie. Wenn ich recht verstanden habe, ich parlo tedesco. Che Geht es also darum, dass hier also sowohl für Rosmini als auch für Marechal eine Metaphysik als komplementäres Element, als die natürliche Grundlage für den Adressaten der Gnade Gottes unbedingt notwendig ist und auch verteidigt wird und entsprechend das Fundament aufgezeigt wird. Und Sie sehen da einen Dissens oder beziehungsweise was du Vortrag tra quello che è stato esposto nella prima conferenza del mattino, se ricordo bene, ovvero che la metafisica, come dato che lei cita Karl Barth, che la filosofia sia la storia degli errori umani, detto in altre parole, penso che lei intendesse Karl Barth, il teologo evangelico. Karl Barth ist der Theologe im evangelischen Bereich, nell'ambito evangelico, der wohl am härtesten und nella maniera più dura, entschlossensten jegliche Metaphysik, und das geht bei ihm bis hinein in den liturgischen Vollzug ablehnt, weil zwischen Gott anche und nella, Mensch fino alla liturgia, sein kann, perché fra Dio e l'uomo non vi può essere alcun rapporto. Besonders scharf die Analogia e ciò si esprime nel fatto che lui nega l'analogia entis di Tommaso d'Aquino. Vorrei dire che ciò che io ho esposto era il tentativo di una gewisse Gemeinsamkeit zwischen der Position Rosminis im Ansatz zur Metaphysik und der von Joseph Marechal aufzuzeigen. Nell'approccio alla metafisica fra Rosmini e Marechal. Ja, Metaphysik ist möglich. Qui c'è un sì assoluto, la metafisica è possibile, il destinatario della grazia di Dio, cioè l'uomo, è per sua natura non abbreviato, non ridotto, ma dalla grazia viene accolto ed elevato. La grazia come autocomunicazione di Dio non elimina la natura umana, ma l'accoglie in un certo senso come natura elevata, l'accoglie nella realtà di Dio. Questa posizione di Rosmini e di Marechal si trova in un rapporto contraddittorio con Karl Barth, Vortrag gesagt worden ist. Con quello che è stato detto nella prima conferenza. Oder, ja, dann habe ich das vielleicht zu scharf verstanden. Allora forse l'ho capito in maniera troppo forte. Auf alle Fälle, in ogni caso, diesen Dissens, questo dissenso, penso che muss an einer anderen Stelle aufgelöst werden. Deve essere risolto in un altro luogo. Bei mir ging es darum, eben eine nella mia relazione si è trattato di indicare una certa comunanza nel punto di partenza sulla questione se sia possibile la metafisica tra Rosmini e Marechal. E io ritenevo di averlo espresso, anche se nella brevità del tempo e un po' lacunosamente. Certamente ci sono anche delle differenze se si guarda più da vicino, ma penso di averlo indicato. Forse dovrei passare la domanda ai relatori del mattino, professor Menke. Ich würde bezüglich Verweihen, nicht, worauf Sie riguardo a Verweihen, a cui lei si è riferito, che andrebbe paragonato con Barth, penso che sia proprio il contrario. Se si conosce Verweihen, purtroppo non è qui, altrimenti potrebbe difendersi da solo. La sua posizione è proprio opposta a quella di Barth, il quale argomenta a partire dalla fede. Posso soltanto saltare in Dio mediante la fede, mentre la posizione di Verweihen è proprio quella diametralmente opposta. E mi dice, postmodern denkenden Gesellschaft wie der unsrigen, in una società come la nostra che pensa in maniera postmoderna, se in questa società che pensa in maniera postmoderna voglio presentare la fede in Gesù Cristo come la verità unica per gli uomini di tutti i tempi, allora ho bisogno di una metafisica. Den historismus e comunque des 19. una metafisica che Subjekt, abbia assunto lo storicismo e la critica del soggetto, una nuova metafisica, e questa negli punti di partenza di Rosmini è già prevista. Ma quello che Verweyen vuol dire con la sua teologia fondamentale è questo: non posso fare quello che fanno molti uomini oggi, credere in un senso in sé, no? Credere in maniera fideistica, perché oggi tra i giovani molti vanno in una setta giovanile o così, credono qualcosa come vero giusto per credere a qualcosa, solo per avere un orientamento, senza rendersi conto di questa decisione fideistica. Secondo Rosmini esiste solo una verità, non una pluralità di verità, ma una sola verità, e Cristo su ciò pone un grande valore, è solo il senso per gli uomini di tutti i tempi, anche se per me è il senso. È il senso degli uomini per tutti i tempi, se è il senso anche per me. Non posso cioè accettare in maniera fideistica Cristo, ma devo poter credere a Lui in una responsabilità di fronte alla mia ragione. Devo perciò, in base alla ragione che argomenta in maniera ragionevole e trascendentale, scusate, devo dire che è indicabile tramite la ragione che in mezzo alla contingenza della storia del mondo è possibile che si manifesti l'infinito, l'assoluto. Questo lo crediamo di Cristo. Verweyen non vuole dimostrare, perché questo sarebbe razionalismo, non vuole dimostrare che Cristo è il senso assoluto, perché questo possiamo dobbiamo crederlo solo, ma in base alla ragione che argomenta in maniera trascendentale gli vuole arrivare al punto di dire dinanzi al tribunale della ragione autonoma dobbiamo dimostrare che è possibile ciò che noi crediamo, che è possibile. Così nella mia relazione ho cercato di mostrare che in Rosmini, mediante l'idea dell'essere, l'uomo è sempre già ordinato a Dio in maniera tale, il desiderio naturale viene chiamato nella Agostino, che noi siamo talmente ordinati verso Dio che se noi impieghiamo la nostra ragione in una maniera conseguenziale, filosofica trascendentale, arriviamo fino alla fondazione di un senso ultimo universale. Se noi prendiamo questo concetto di senso ultimo motivato in base alla ragione e lo confrontiamo con il Cristo che ci viene attestato dalla Bibbia, allora, lo dice anche Rosmini, nella luce della rivelazione la nostra ragione verrà illuminata al punto tale che in base a questa congruenza tra rivelazione e ragione arriveremo ad una affermazione credente della verità. Posso considerarmi un ammiratore per tutto quello che ha fatto. Un rilievo è questo: gli autori del postmoderno, non essendo dei classici, neppure per loro presunzione, non si vede perché trattarli come classici e presentarli come esponenti del pensiero contemporaneo, perché non rappresentano nel loro frammentarismo neppure se stessi. Del resto, chi nega Dio è una singolarità del diniegante, che direi, che manifesta la sua metafisicità. Quello che non so se sarebbe il caso di riflettere più profondamente sul sentimento fondamentale, e non parlare tanto di sentimento fondamentale corporeo, sentimento fondamentale intellettuale, ma sentimento fondamentale come tale, distinto del sentimento corporeo, perché credo che ci sia un sostanzialismo in Rosmini che qui manifesta una chiarezza massima. Prendiamo il professionista puro, consacrato alla sua attività professionale. In lui il sentimento fondamentale rivela in lui non solo la sua corporeità, ma anche la sua realtà spirituale. Penso che forse sarebbe il caso di vedere, e penso forse che la distanza tra Marsale e Rosmini sia proprio qui, il sostanzialismo sotteso, non è vero? Il trascendentalismo di Marsale invece dall'altra parte, non è vero? Non per nulla Fabro ha fatto qui i suoi rilievi, non è vero? Ma la domanda mia è di altro genere. Abbiamo avuto una beatificazione di Ciderer, e data la competenza del professore, vorrei chiedere se il mondo ambrosiano, presentandoci un Sant'Ambrogio, il quale alle sue spalle, parallelamente alla sua attività e dopo di lui, presenta un San Simpliciano, che è il vero direi, custode della tradizione filosofica e teologica, che è il vero animatore della conversione di Sant'Agostino, se non sia il caso di vedere anche un Rosmini analogo a San Simpliciano nei confronti di un Ciderer che è più pastoralità pura come Sant'Ambrogio, non è vero? Per cui la Manzoni diceva di Rosmini che era un padre della Chiesa, la spiritualità di Rosmini, la padre della Chiesa, credo che abbia lasciato tracce profonde nel seminario maggiore di Trento, nell'indirizzo religioso ascetico dello stesso Ciderer, quando ha dovuto fare le sue scelte nei confronti del mondo religioso che doveva governare. Ancora oggi a Merano c'è un sacerdote del seminario maggiore di Trento che vive una spiritualità rosminiana che risale a quei giorni. Io ho conosciuto molti professori sacerdoti del seminario maggiore di Trento. C'è stata una continuità storica da allora, dalla presenza di allora di Rosmini fino ad oggi. Ecco, non so se sia il caso di mettere a confronto, non è vero, Sant'Ambrogio e San Simpliciano, Ciderer e Rosmini. Sì. Es wird übersetzt, nicht? Oder viene tradotto? Also es ist nach, ich bin vielleicht nicht der kompetenteste Mensch hier, die auf diese Frage einzugehen, nicht, weil ich sicherlich eher aus der Sicht des Systematikers Rosmini betrachte. Also die Frage vom Professore Pellegrino war schon eine, die mich direkt natürlich betrifft. Deswegen weiß ich nicht, ob hier nicht jemand ist, der da kompetenter wäre, darauf zu antworten. Aber ich will gerne einen Satz doch dazu sagen. Ich meine, was Sie eben gesagt haben, dass dieser Hinweis sicherlich sehr wichtig ist im Kontext einer rein systematisch-philosophischen Betrachtung Rosminis, in die diese Tagung leicht natürlich geraten kann. Ich habe das heute Morgen mit dem Begriff in Objektivatione etwas in Erinnerung gerufen, denn der Begriff in Objektivatione ist ja letzten Endes nur der philosophische Ausdruck für das, was Rosmini in seinen geistlichen Schriften, in seinen Briefen und in seinen Discorsi parrocchiali etc. Immer wieder ausdrückt, Sacrificium. Hingabe, das ganz beim anderen sein, beim anderen des Nächsten und bei Gott. Je mehr ein Mensch aus sich herausgeht in das andere seiner selbst, je mehr er sozusagen das Ego seines Subjekts transzendiert, und das ist ganz konkret gemeint bei Rosmini, desto mehr ist er ein Mensch, der natürlich auch die Einheit von Subjektivität und Objektivität lebt. Er ist da praktisch ein, ja, jemand, den man nach dem Grund seines Glaubens und seines Altruismus und seiner Nächstenliebe fragen wird. Und damit nicht nur einer, der seinen Glauben reflektiert, sondern auch lebt. Also die praktische Inobjektivation und die reflektierte Einheit von Philosophie und Theologie, Vernunft und Offenbarung, das darf man nicht auseinanderreißen. Und da gebe ich Ihnen recht, da ergeben sich durchaus Beziehungen, nicht zwischen Augustinus, Ambrosius, zumindest in dem Sinne, dass man sagen kann, alle, die die Einheit von Glauben und Wissen, von Vernunft und Offenbarung gelebt haben, nicht nur reflektiert haben, die wir jetzt genannt haben, Augustinus, Ambrosius, Rosmini sind sicherlich auch Leute, die sie reflektiert haben, aber alle, die sie gelebt haben, die hat man, wie es im ersten Petrusbrief heißt, nach dem Grund ihrer Hoffnung gefragt. Und das ist dann sozusagen das beste Kriterium für eine gute Einheit von Philosophie und Theologie. Ja. Ha chiesto la parola il professore Stagliano, chiedo scusa. È fondamentale l'accento. No, per carità. Ma io vorrei, se è possibile, intervenire nel dibattito suscitato dalla domanda del professor Pellegrino, non per offrire risposte, ma per problematizzare ulteriormente. Nel senso che la stessa risposta data dal professor Menke potrebbe patire ulteriore approfondimento. Certo, dispiace che Fervaian non sia appunto in aula e quindi non possiamo sentire dalla sua viva voce che cosa pensi a proposito, però mi pare certamente che la sua posizione non possa essere assimilata a quella del fideismo barthiano, almeno anche in riferimento ad alcuni testi da lui pubblicati. Penso all'opuscoletto molto significativo Nach Gott fragen su Anselmo, quando egli riprende precisamente e critica negativamente la posizione barthiana. Barth è anche autore di un preziosissimo libro, Fides Querens Intellectum, su Anselmo, e tenta appunto di assimilare alla propria epistemologia teologica l'opera di Anselmo. Certamente dunque il punto di partenza, il mio modesto avviso, per quel che ho capito della teologia fondamentale di Fervaian, anche il punto di partenza di Fervaian è appunto questo glauben, credere, che non è un'opinione, ci è stato detto oggi, ma è una convinzione, quindi rimanda necessariamente ad argomentazioni che in qualche modo esprimano intelligentemente la plausibilità del credere stesso, secondo il monito prietilino che noi dobbiamo rendere ragione della speranza. Perciò egli vorrebbe uscire anche appunto da questo pluralismo frammentarizzato del mondo postmoderno per pervenire anche a un linguaggio, potremmo dire, basico, comune, no? In cui tutti gli uomini possono in qualche modo confrontarsi. E questa base non può non essere fornita appunto dalla filosofia, che lungi dall'essere un vicolo cieco, io non ho trovato questa espressione, forse l'ha trovato là, ma probabilmente, lungi dall'essere un vicolo cieco, inesorabilmente per Fervaian, se vuole, va bene professore, ma inesorabilmente per Fervaian potrebbe essere più che altro una strada aperta e aperta all'infinito. La sua Est-Philosophie indica questo. Allora io però vorrei problematizzare, non so se il professor Menke è d'accordo su questo. Cioè, a mio modesto avviso, questa possibilità di una ragione pura, che ovviamente è come la natura pura, è semplicemente un'astrazione, un'ipotesi logica, questa possibilità che la ragione cosiddetta autonoma produca un concetto di e quindi di assolutezza, senza in qualche modo concludere ontologicamente alla realtà che corrisponde. Ecco, questo secondo me è molto moderno, cioè è ancora permanere nell'Ich-Denke, sviluppandone al massimo, come lui dice, la tribcraft, questa forza, questa tensione, questa dialetticità che mi spinge sempre oltre, ma che alla fine non potrebbe dare risposta rispetto allo stesso interrogativo che Cartesio pone nelle sue meditazioni, e se fosse ancora l'ultima menzogna della mente umana. Momento, e concludo così. No, perché io ho avuto la fortuna di interessarmi nell'ultimo periodo anche del pensiero di Verweyen. Ovviamente le interpretazioni, il conflitto delle interpretazioni può essere grande. Cioè, a questo io volevo adesso non entrare nel merito della questione, volevo dire, eventualmente offro la domanda anche a lei. È possibile articolare adeguatamente un rapporto tra teologia e filosofia, ma che sia concreto? E cioè che il contenuto della teologia corrisponda effettivamente a ciò che la filosofia, anche solo come apertura, se si vuole come esigenza tra virgolette, esprime, senza che questo concetto di incondizionatezza, di assolutezza, di definitività termini alla res, per dirla con Anselmo. È possibile avere, stabilire nella mente dell'uomo l'id quo maius cogitare in equit, senza che questo non sia solo in intellectu, ma sia in re, al di là della faccenda del salto ontologico che qui non interessa. Se la filosofia, probabilmente, ecco, lei ha capito forse bene, in questo senso la filosofia è aperta indefinitivamente, non conclude, ma se non conclude su una realtà che non necessariamente deve essere il Dio rivelato, ma può essere Dio come assoluto, nella sua ontologicità, nella sua realtà, io credo che il rapporto tra teologia e filosofia sia difficilmente realizzabile. Io vorrei solo dire questo, che c'è un punto che non mi convince, ed è che Rognini è anche un classico, non è solo un moderno, è anche un classico, e per lui i trascendentali, essere ideale, reale e morale, ci sono anche in Platone, ci sono anche in Aristotele. Questo, quando uno raggiunge il trascendentale, lo raggiunge anche nel mondo, e non erano cristiani quelli. Cioè, il problema è capire che se noi accettiamo una filosofia tipo ontologico come quella rosminiana, possiamo dialogare anche con gli africani, con i precolombiani, con Aristotele, con Platone. Questo è il punto. Se noi perdiamo questo, noi non siamo più classici, non siamo più neanche appartenenti alla tradizione cattolica, che ha sempre visto la distinzione tra natura e soprannatura, tra ragione e fede. Questo, cioè, c'è il rischio di slittare. Io non dico che il professore è Bartiano oppure anche il Vai, ma dico, c'è questo rischio. E secondo me nella relazione fatta dal professor Pulcella invece questo rischio non c'era. Cioè lì c'è la complementarietà, la conformità, conformité de système, come dice Schneider anche. Ecco, questa conformità tra il piano naturale e soprannaturale, secondo me questo è fondamentale. E in Rognini c'è, questo c'è indubbiamente. No? Ecco, cioè io dico che è un rischio, non è che dico che è Bartiano oppure la tornatura, c'è questo rischio. E Rognini è sfuggito a questo rischio. Questo per me è una delle grandezze di Rognini. Viene tradotto? No. Forse. Un punto che devo, il mio italiano è terribile, ma forse, un punto deve essere chiarito. Noi, io sono in un punto un po' differente. Lui ha accennato nella sua relazione questa mattina che la fede è metodicamente in Rosmini il presupposto della ragione. Ma questo è vero solo in un certo senso. Mi sembra che Rosmini vuole, crede sempre, ma vuole metodicamente cominciare, almeno nelle sue opere mature, Nuovo Saggio sull'origine delle idee, per esempio, non nel giorno di, il giorno di solitudine, in questo anche non nella natura, si può dire, in quasi, lui è quasi un po' un tradizionalista, forse già, ma nelle sue opere mature Rosmini non presuppone i dogmi, ma metodicamente vuole chiarire con la ragione stessa, con la ragione trascendentale che l'uomo è da sé. Il desiderio è alla base di quella chiarezza trascendentale. L'antropologia dell'uomo analizzata dalla ragione pura, dalla ragione trascendentale, rivela un uomo che è così che i dogmi non sono un piano sopra la natura, ma rivelano una congruenza stupenda fra soprannatura e natura. Ma adesso a Verweyen dice in una maniera simile che se l'uomo è creato come quell'ente che non può esistere senza che Dio si automanifesta all'uomo, grazia. Se un uomo non può vivere senza la grazia, si può anche dire la grazia è necessario per l'uomo, ma questo non è una tesi contro la gratuità della grazia, perché se l'uomo ha creato l'uomo così come è, l'uomo sia obbligato di automanifestarsi all'uomo, sì? E questo dovere non è una tesi contro la gratuità della grazia, ma è l'espressione di una libertà assoluta di Dio, perché libertà è Selbstbindung, auto sì? Autodeterminazione. Mi chiedo un chiarimento: se lei accetta questa posizione, una posizione è quella di Rahner, per il quale ogni atto morale è esistenzialmente soprannaturale. Ogni atto morale, quindi anche uno che addirittura non solo è un politeista, ma addirittura è uno che è convinto di essere ateo sul piano della coscienza, però è così onesto che in realtà lui è in grazia di Dio, vive della grazia di Dio. L'esistenziale è soprannaturale. Sì, sì, per Osmini no. Professore Pellegrino, das ist ein Punkt, wo Rosmini... C'è separazione, c'è distinzione tra natura e grazia, non c'è separazione, sono d'accordo. Sì, ma queste cose poi bisogna anche pensarle realmente, perché dire che non c'è separazione, c'è distinzione, ci applaudiamo reciprocamente, però il problema è sapere, se non c'è separazione ma c'è distinzione, che cosa succede, come è pensabile la non separazione? E com'è pensabile la distinzione? Questo è il problema serio. E questo è il problema che interroga la nostra attività cogitante. Allora abbiamo bisogno di categorie, di concezioni del mondo, della realtà, di modo di intendere il rapporto tra filosofia e teologia che illumini. No, per carità. Esatto, esatto. Però appunto, cioè quello che molto spesso poi... Aber Professor Pellegrino, ich verstehe aufgrund Ihrer Arbeit, die ich gern gelesen habe als Student schon über die Mystik Rosmini, Spiritualität und Mystik von Rosmini, dass Sie ein wenig bei Verweyens Vortrag gewittert haben, dass er sozusagen eine Art Rationalismus vertritt. Das kann, also aufgrund der Terminologie kann der Eindruck entstehen, aber de facto, ja. I relatori per l'altissimo livello dei loro contributi e ringrazio il pubblico che mai ho visto così numeroso e così costante fino alla fine della giornata. Vi ringrazio. Tre relazioni alle quali poi seguirà la discussione e speriamo di stare dentro nei tempi in modo di poter anche fare con una certa distensione poi degli interventi sulle relazioni presentate. La prima relazione sarà presentata dal professor e padre Tiet, della Pontificia Università Gregoriana e dell'Istituto Cattolico di Parigi. Padre Thiet, non occorre che lo presenti, notissimo come teologo, ma credo che è bene anche ricordare, al dar qualche cenno, di qualche suo libro che riguarda specificamente il tema che ritratterà in questo nostro incontro. Il Cristo della filosofia, i filosofi davanti a Cristo. Poi scrisse, e questi mi fermo un momentino più particolarmente, anche su temi rosminiani in modo specifico, una serie di articoli sul Gregorianum di un po' di anni fa, sui problemi di filosofia eucaristica, in cui trattò anche Rosmini, le tesi sull'Eucaristia rosminiane, come pure un libro molto noto, La settimana santa dei filosofi, in cui nel sabato santo si riferisce come maestro ispiratore per il sabato santo anche al teologo Antonio Rosmini. Come pure scrisse vari articoli, sempre su Rosmini, anche sulla rivista Rosminiana e in altre riviste.